Avanti, chi c'è sul canale 10? CQ10. CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10. CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Hola CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Sì, Anatoli, buonasera, ciao. Chi sei, Gianni? Sì, Anatoli, Gianni. Dammi un controllo di radio, come sto uscendo con questa radio già? Perfettamente, va bene. Si sente l'amplificazione? Diciamo non tantissimo. Allora, guarda adesso un po'. Adesso no, è una pompa. Stavo provando ad abbassare e alzare questo microfono dalla radio, capito? Che microfono è? È una V508. Ah, ho capito. Ci sono quello che c'ha le regolazioni, che c'ha anche le basi. Attento Gianni, il cambio! Avanti! Allora io con il segnale, rampa, rapper positivo, cambio basso. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, caffa. 9 e 30. Quindi va bene, sì già. Sì, aspetta che regolo. Ah, passaggio già, la radio mi sembra bassa però, Bassa la radio? Cazzo, mi sei venduto sotto, vado di gufo, non me lo potevo avvisare, capo. Se l'ho alzata adesso. C'è una radio, no? Sei a fondo scala qua, dai, aspetta che regolo. Gattino, se no mi bruci tutto tu, capito? Già va bene, già va bene. Ma che c'è Natalino anche? Ehi, ciao fra, sei entrato a gamba tesa e mi hai calpestato praticamente. E addirittura Natalino. Sì, 9.40 Gianni e tu sei 9.25 qua. Ehi, vabbè, ma sono basso io, capito? Gappa gappa, andare. Ah Gianni, bene l'ascolti? Sì signora, mi guarda, ho imparato a abbassare questo microfono dalla radio. Forse era troppo amplificato poco fa. No, va bene così, già ti ascolto bene già. E allora la lascio così, che era troppo forte magari. Quando sono in banda laterale lo aumento, diciamo così, da. Cosa già? Non ti ho capito. Ho detto, fra, devo regolare una cosa, quello fuoco è attaccato come arrivo. No, devo bruciare nulla, mi hai scelto che abbascio, ma sicuro, dai. Prova, va. Sono attenuate 6-9, oltre 9 non ti posso attenuare, però la radio non mi piace. Guarda adesso fra, stavo regolando, va. Adesso va bene, attenuato 9-5, senza attenuatore, lo lascio attenuato, se no mi spacchi lo smitter. Che ti si era spezzata l'antenna. Sì, l'ho messa a posto. Questa antenna gatta sempre io, me l'ho comprata nuova, ti sei sempre drunkendi, boh. Lo sai cosa avrei fatto? Avrei preso una di quelle secche di coso, una di quelle secche di sonde per mettere i fili elettrici, e gli avrei messo uno stilo così, tutto duro. questo ricevitore qua, se no entra niente a rompere gli catturi, capito? E l'avrei aggiustata così. A Roma non si faccia più, chi sa per detto resina che si faccia deve sì. Non serve a niente, no, era sfasciata anche in altri punti, altre crepa. Non serve a nulla tornata lì quella, quel materiale. Loro dicono materiale buono, non so cosa, ma poi non serve a niente. Beh, secondo me era già lesionata quando te l'hanno venduta. Non è possibile che si tronchi così l'antenna. Cavolo. Comunque, se la volevi mettere a posto del tutto, dovevi fare come ti ho detto io, una di quelle verghe di coso, mi avrebbe preso le misure e l'avrei fatta così. E vedrà, non si ci faccia più a chi vetroresina, se non viene in PVC e non si può troncare, penso. No, fra. Cosa la carì? Non ti ho seguito che era in bagno. Ho detto, per aggiustare quell'antenna di Gianni, comprava una di quelle verghe di PVC dove si infilano i fili elettrici. E gli avrei fatto lo stilo per tenere il dipolo in verticale con quel materiale lì invece che la vetroresina. Ho capito, sì. E infatti, e vabbè, dai. Abbiamo sistemato, l'ho sistemata io, va bene lo stesso. E cosa l'hai fatto ora? Una modifica, gli ho messo le cose di PVC, quello che usano le canalette che usano per passare i fili elettrici, tutta rinforzata e rimontata. Ah, cappa, come ti ho detto io, dai. L'unico sistema è così. Sennò è un macello. Ma Gianni già due volte se gli è rotta, mi sa. Perché lì tira vento, purtroppo che ci vuoi fare. Comunque c'è bene, fatto un bel segnalone, cioè. Perché quelle antenne sono buone. La sua deve essere lesionati gli stili sicuramente. Non è possibile che si tronchi a così. Gianfranco non so quanti anni là e in chi vi dirà più di Gianni Ruventu. Secondo me era già lesionata quando gliel'hanno venduta. No, c'erano delle misure da rispettare quando l'abbiamo piazzata, non abbiamo rispettato le misure, è quello, è che uno è entrato di più e l'altro di meno, quindi quando è entrato di meno non ha tenuto e si è troncato. Cappa. E io me l'ho comprata, ce l'ho già qui, solo che sto aspettando che faccia un po' di tempo buono per piazzarla. A Romanco ne arrampi in terra, è tutta piena d'acqua, e c'ho stazionari. E vabbè, va, è risolta già, non tocca più nulla, mi. No, non tocco niente. Adesso quella muore così, va bene e la lasci così. Stazionaria non ne hai, è perfetta. Sì, vabbè, va. Uno e uno. Ma cosa vuoi di più? Anda benissimo. Che non passa dei batti uno e uno, se metto 10 batti sale. Ma è normale che sale, pure un mio se pongo 600 watt, altro. No, io se pongo abito di 10 watt, no, adesso sono con 3 watt. Sì, 3 watt è la goda, sì, si affondo scala, no, che più. Ma perché le antenne si vedono, fra? 3 watt, c'è 9,40, boh. Ma sono staccato adesso. Ma che bagusiare bene i volti, ogni segnale, non ho mai visto questo segnale così io, boh. Adesso ho alzato 10 watt. L'ho aggiustata già. L'ho aggiustata io, qua. Tanto, allora, attenuato 6,9, se ti attenuatore vai oltre 9,40, a fondo scala, capito? Infatti tu attenuato sono i spacchi lo smitter. Ciao, da te non arrivo. Dipende come sei già, devi farmi un passaggio liscio, senza niente. Questo è liscio, liscio. No, è 15, sei, non le 15, il suo segnale più o meno a quello, lei. Avete rimesso il tubo? No, ma te no, c'è va niente, non stava irradiando perché era piegata già. Cavagata. E adesso provo con l'attaccata. Senta che cattivo. Sì, fra, l'ho tutta riforzata, glielo, si è stata bene, dai. Beh, se è fatta a Duggia, sono tranquillo. Ho detto, sì, leggermente saturino, però, perché? Ma io? No, Gianni. E sicuramente va la cuffia attesa. Ho detto di no. E allora c'è qualche disaccoppiamento. Guarda adesso. Vedi, sei saturo, prima non eri saturo già. Secondo me quel microfono già, regola bene il microfono. Prova. Non sei saturo già, sei saturo, non mi piace la modulazione. È bello squillante prima, come mai? No, non sei uscito adesso, ciao Natalino. Ciao Cla. No, già, non ci siamo con la radio. Il segnale va bene, ma con la radio non mi piace. Non è che a me piace la radio, assolutamente. Cosa gli hai messo, Fra? Un tubo di rinforzo in PVC? Gli ho messo due tubi di rinforzo in PVC, di quelli che usano gli elettrici per passare delle canalette, dai. Quelli rotondi. Va rinforzata bene con la tenata, perché dove c'è Gianni c'è troppo vento, troppo. Capito, poi è alta, la zona alta, è aperta a tutti i venti, quindi vuole rinforzata bene con l'antenna. E se l'ha fatta in PVC, come ho detto io, non si faccia più. Va a vedere adesso come va la radio. Molto piano, non mi piace la radio, cazzo. La radio è sempre montata, non mi piace. È smorzata, sembra che c'hai qualcosa attaccato. No, niente attaccato. Che radio è questa? Galax. È strana, molto strana. Non so. Franco? Prova già, prova a regolarla, a vedere. Poco fa andava bene, buh. Ma è che quel microfono è quello, il tame più 3, ma bugazzino già. Metti il coso Sarelta. No, è Sarelta questo. Adesso sta andando bene, regolalo cazzo, se non lo regoli. Perché c'era da regolare il microfono. Vabbè, lascialo così già. Però io la sento smorzata. Abbassa appena la potenza, anziché a 10, mettila a 8 watt. Non stai uscendo. Niente radio già. Certo, mi sono garaccio, ne hanno trovati le bizze. Comunque l'importante è che l'antenna sia a posto, già va bene adesso. Se te l'ha rinforzata Franco, stai tranquillo. Oggi stavo per chiamare, mi fra innestarmi quei tubi, invece poi ci avevo altro da fare. Non sta giù già matto. Adesso domani devo andare a fare l'altro vaccino, quindi sono impegnato con la mattina. Peccato perché anche domani è bella giornata, cazzo. Il terzo? Ehi, questo è il coso, il panel, come sta andando? Già, benissimo, non c'è niente da dire sulla radio, però ti ripeto, la sento smorzata, non so se mi spiego. Sembra che hai qualcosa attaccato, non so se gli altri sono d'accordo. E ci sarà qualche disaccoppiamento col lineare, là. Detto che non è allineare attaccato, poi già lo prendo io che non è allineare attaccato qua, quando attacca allineare è più 30, adesso è più 20, abbassa già appena il power, l'RF power, anziché metterlo a 50, no, dove c'è scritto 50, mettilo dove c'è scritto 40. Guarda, l'ho abbassato. E dici che va meglio, cazzo, ma sei sicuro da disattivare questa radio? Sui 10 watt, ma c'ho picchi negativi, buh. Come c'è picchi negativi? No, qua prova a fischiare. No, qua sono positivi. Anche qua adesso. Lascia stare così che va bene adesso la radio, non tocca a nulla già che va bene. Se tu metti quell'affare d'ingresso, non te ne dai 10 watt, devi dare almeno 4 watt d'ingresso, massimo 5, se ne dai 10, vai in disaccordo. Aspetta che provo là adesso se... Prova, riprendi qua. Ehi. Capolano, stamattina ti stavo per chiamare e poi ho lasciato perdere perché stavo facendo altro, per innestarmi quei tubi in PVC. Ma in settimana, se fa bel tempo, già lo facciamo. Vabbè, fammi sapere, dai, non c'è problema. Gappa, andare, vai Natale. A me bene, mi ascolti qua. Una bomba, 9:10, radio 5, sì. Uscendo sto, Claudio. Adesso sei tu già, la modulazione è quella. Ok, ho fatto la regolare tutto, vediamo un po'. Così è la regolazione tua, così sei tu. E io come sto uscendo di radio? Guarda un po'. Va bene, non lo so, per me va bene, qua per te. Alla grande, sto uscendo benissimo Natalino. Gli ho abbassato il mic gain, l'ho messo a metà. a vedere come usciva, così posso abbassarla dalla radio. Sì, va bene Natalia, ottima, 5 perfetta. Va bene così allora. Via, quella roba là è pronta, peccato che oggi non avevo macchina, se non ci siamo visti stamattina torri. Ci avremmo preso un caffè, ma ero a piedi, sono a piedi. Oggi tutto il giorno la macchina c'è la mia figlia, perché c'è un casino al bar, un sacco di gente, Piazza Italia. Stanno facendo un sacco di manifestazioni. Adesso poi stasera c'è cosa cena, quindi non c'ho tempo di niente. Se ce la facciamo, vediamo un po'. Sì, capa, non c'è problema, dai. Dal 3 di aprile Natali e salvare i due figli, grigio col grigio, rosso col rosso, e basta. Stai attento, fallo piano piano, perché sono fini fini, sono sottili quei fini, e poi lo attacchi. Dai, te lo faccio io, con 100 euro tenisci Natali, non c'è problema. A chi rimane gigardi, va giù. Non lo vedi che mi metto anche la mascherina quando lo faccio? Cosa ti credi? Beh, come chirurgo. E allora, e l'opera è giù, Ma io quando ero bozzo faccio le cose fatte bene, come Agnese, sogo. No, ma l'avrei potuto fare anche io, solo che faccio fare Natalino, che lui c'ha più manualità, io non lo prego. Sono due figli della capsula microfonica, così si risalda, e c'è l'altro microfono originale dell'ICOM. E beh Gianni, quindi tutto a posto adesso, va? Tutto a posto, niente in ordine. Altro tuo vaccino devi fare. Via, domani. L'appuntamento dove l'hai preso? No, la farmacia me l'ha preso. Ah, ok, lo faccio anche così. Devo controllare a vedere se sono passati 6 mesi. Sì, 7 mi pare. Ho fatto un bel prima. Un atto mi sembrava fatto secondo. A me il 30 mi tocca di pomeriggio a Fangualla. No, il pomeriggio pure a me vuol dire, no. Di mattina no, niente. O lo salto. No, allora, vediamo, vabbè, domani mattina. Ehi, fatto fatto, non vi si pensa più là. Vedo rompimento di carte, non ne vediamo vincitori dai stati grazie. Mi hai visto la regione Calabria in zona gialla, speriamo che non succeda niente qua in Sardegna, però ci sono un bel caso, sta sempre salendo. Spero che per Natale non succeda casino di nuovo, con tutte queste riunioni, assembramenti, feste, controfeste, ma carità, lasciamo perdere. Vabbè, vediamo un po', dai. Io sto aspettando che mi chiami Franco, perché devono venire a cena con la moglie, no? Lasci pure che me la metta, che me lo porti appresso, perché dobbiamo uscire a prendere pizza, quindi molto probabilmente Natalini. Se ti chiamo e te lo passami. Ehi, fai così. Così lo provo a vedere se va bene su questo apparecchio qua. E capa gara. Il suo, sei come della Rotto 120H, non cambia niente. Te l'ho detto, non fanno un sacco. Ad esempio stavo guardando, io ho due microfoni della Kenwood uguali, precisi e identici. Uno è l'MC43, ok, l'MC43 è del 430, e quello del 400, del 140 è l'MC42. Ehi, lo so, sono precisi, cambiano i codici e basta. Invece dell'HM12 quello è l'HM36. Sì, HM36. Poi io li conosco perché c'avevo l'HM13, l'HM12, poi questo HM36, poi non mi pare del 756, del 756 Pro, mi pare che avesse ancora un'altra sigla, ma erano tutti uguali, sono tutti uguali i microfoni, precisi identici, non cambia assolutamente niente. Va bene, dai, allora Gianni ha messo a posto l'antenna, sono contento, ti ripasso il cambio, Gianni, io mi ritiro per deliberare, dai, che me devo vestire, sono in pigiama, adesso mi inizio a attaccare il riscaldamento, così quando arrivo a la casa è bella calda, e ci aggiorniamo, dai, Gianni, lascia tutto così che vai bene, ok? Cara, anda bene Meda, mi è venuto anche a me l'idea del PVC per quell'antenna lì. Infatti, no, ma non lo so, prima di piazzarla ce li posso direttamente ristili di PVC. Guarda lì, ma la tua non ne prende il vento, non ne prende il vento, la tua è quella di Giulio, bella riparata. Ai Gianni, che abbiamo piazzata, già l'hai vista, c'è molto esposto al vento, capito? Molto esposto al vento, c'ha 4 metri di tubo, poi è aperto lì, è tutto aperto. Il maestrale lì, quando picchia, picchia, non è che ti chiede il permesso, capito? Flettendo troppo sicuramente l'ha indebolita, però non l'ha spezzata, visto? L'ha indebolita e già non ha fatto danno, anche perché lì danno da fare non ce n'è. Può rompere il PVC, ma cosa rompe? Non faccia nuda, cosa faccio? Le rimetti la stecca nuova e via. Però quando le comprate quelle antenne lì, rinforzatele prima di montarle. Quanto è lunga l'antenna? Quanto è lunga? 6 metri. Allora fai due sezioni da 3 metri di tubo di canale in PVC, leggermente più larga di quella, leggermente però, leggermente, capito? Col calibro misurata bene, leggermente. E si infila tutta intera, tutta, praticamente doppio rinforzo, tutta intera, e poi la piazzi, capito? Al centro, bella vulcanizzata, dove c'è la giunzione dei due tubi, è una fascetta, o due fascette, e poi bella fatta così, io l'avrei fatta così. E adesso la piazzo così, poi se mi dovesse succedere le volto lo stilo direttamente nel gabo, chissi, e ripongo lo stilo unico in PVC, vedrà non si tronca più. O era già lesionata quell'antenna di Gianni, cosa vuoi che ti dica? Cazzo, via due voci si è troncata. Beh, ma vabbè, già c'è il rimedio a quelle cose. No, è facile riparare quella, non è un problema, capito? Se intanto dentro c'è quel cavo, quindi non è che fa danno, non ci sono bobine, non c'è niente. Quindi se si spezza si aggiunge e si mette il tubo nuovo, come ha fatto lui. Va bene, va benissimo. Dai raga, io vi saluto. Natalì, quando arriva Franco ti faccio sapere. Ok, ti faccio un colpo di telefono, scendi giù e te lo do. Adesso vediamo, quando arriva Franco ti faccio sapere dopo, ok? Così lo conosco di persona pure. Caspizzina, siamo anni che si va a vedere, ma ancora non si punisciamo. Tu a Gianfranco il vento, lo sai cosa ha fatto? L'ha pigiato una saffa di un'antenna piegata il vento. A me che andava su stessa la tromba d'aria, Maria si cade a sighetto lo tubo di l'antenna, l'ho trovata sul tetto la 95, non lo so io, meno male l'antenna non si è fatto nulla. Vabbè dai, fai quello che devi fare, ci sentiamo più tardi. Avanti Fra. Buonasera. Mia Gianfranco, mi buonasera. Ciao, ciao anche a Gianfranco, dai, saluto Gianfranco, Natalì, ci aggiorniamo più tardi. Ciao anche a Franco Califo e a Gianni Doppio, dai, riprendi Gianfranco, per me è quel Rix. Ok, ci sentiamo più tardi, Claudio. Già riparata Natalì, già riparata stasera, anzi da stamane, ho finito stasera, ho fatto una staffa Z, siccome sta angolo l'antenna, il palo, e ce l'ho messa, quindi fino alla prossima tromba d'aria dovremmo essere tranquilli, sempre che non arrivino quelle che sono arrivate negli Stati Uniti, allora non siamo per niente tranquilli. Comunque, tutto riparato, tutto efficiente, controllato, anche tutte le altre, sembrerebbe tutto a posto, quindi la riparazione ha avuto successo. Ok, riprendi Natali, fa girare, saluto tutti quelli che ci sono su 10. Cappa Gianfra, meglio così che l'ha aggiustata. Questa radio ti piace che dovrebbe essere più bassa? Perché c'avevo il macchinino della radio a manetta, invece l'ho messo a metà adesso. Per me è normale, non è bassa, io ti sento benissimo. E più bassa da come era prima. Il macchinino a manetta lo metto solo quando sono in banda laterale, dai. Ok, Avanti Franco. Sono entrato. Ah, faccio Gianfranco, avanti già. Che Franco non ha risposto. Ciao Gianfranco, cosa è successo perché a te l'ha buttato il Non c'è riuscita per un pelo perché è attaccata sopra, no? nel razzo che c'è sopra di me. Praticamente cosa ha fatto? Se l'è presa col tubo e non è riuscita a romperla, perché sia tubo telescopico normale, sopra c'è una X30. E quindi tutto il carico si è scaricato sulla, tutta questa forza si è scaricata sulla staffa di sotto, che era messa da poco, di quelle grosse, è riuscita a piegarla, anche se si mettono due persone a tirarla con la staffa, non ce la fanno a piegarla così. E quindi mi vedevo con questo palo storto, ho detto cacchio, cosa è successo? Sono andato su e era storto, quindi ho dovuto addrizzare e poi metterci un'ulteriore staffa in modo che vada sull'altro lato del muro questa staffa e faccia una specie di quadrato in modo che non possa andare né a destra né a sinistra, che la blocchi. Speriamo che funzioni, perché altre soluzioni non ne conosco, non ce n'è, tutto lì. Ma se cedeva con la staffa ne scendeva il palo e faceva anche danno, l'antenna si disintegrava come minimo. Però è stato forte, capito? È stata una mezza tromba d'aria che c'è stata la notte scorsa. Ho sentito grandinata, una grandinata forte. Sì, ho sentito. E vabbè, succede, dai. Tu pensa che queste trombe d'aria buttano giù tetti e quanto c'è, si portano via brilloni, si distraiono nei posti di mare, fanno un casino lì. Meglio non averne di queste cose, anche se oramai ci dobbiamo fare l'abitudine, guarda cosa è successo negli Stati Uniti, centinaia di morti. Per carità, 30 tornati in un giorno solo, scusa se poco, un bombardamento aereo c'è stato. Dai, rilanciate agli altri, c'era Franco poi che non ha risposto e poi qualche altro. Vai, vabbè, vai a lì, dai, rilancia gli altri. Adesso provo a chiamare a Franco se c'è. Franco, ci sei? Qua sta Natali, come mi ha ascoltato? Datemi un rapporto di segnale. Qua lo sai, no? Che si fa lo scappo. Sto provando una radio. Franco, da te com'è? Da me 9.20. Stampa di positivo, contraccambio, anche tu stai arrivando così. Gianni, da te come mi ascolti? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Sopra il DB del 9, 3. Ok, dai, sto uscendo col 68, lo stavo provando. Ok, vabbè, riattacco con l'altra radio. Grazie. Via, prego, prego. Gianni, ma l'hai già riparata? E quindi non ha niente di grave, ma non ha spezzato nel senso di rotto la vetroresina? Sì, proprio spezzato. Stava pendolando. L'importante è che non cada, nel senso che non cada in testa qualcuno il pezzo. Anche quello c'è di buono. E ci metti una di quelle là, di quei tubi da canaletta, quelli tondi, ti scegli il diametro e la rinforzi, come ho fatto già io con un'altra antenna che provo a HF con una 7000 e ti riaccampa. Molti se la riparano proprio, nel senso che la vetroresina ha quei fogli, no? che si utilizzano nelle barche. Si può fare anche con quello, ma che te frega, ci metti quel sistema lì e fai anche prima. No, abbandono proprio questa antenna, non mi piace più. Come posso ne metto un'altra? Non mi va più bene, dai. Si è rotta da più parti, non solo una parte, si è rotta in due o tre posti, capito? Perché evidentemente era troppo ferma, quando è ferma le forze del vento si scaricano nei punti più deboli, c'è poco da fare. Se l'antenna è del principio che dicevano del coso, no? dell'albero in confronto all'erba. L'erba quando c'è vento si piega e resiste a qualunque vento, l'albero si rimane fermo e viene spezzato, c'è poco da fare, quindi bisogna stare molto molto attenti ai tiranti che non coinvolgano la struttura dell'antenna. L'antenna deve oscillare, quella è un'antenna che deve oscillare, c'è poco da fare. La mia l'avrei piegata proprio tutta messa male, che si agitava, non le ha fatto niente, nulla, e ne ha preso di botte. Questa sarà già la quarta, quinta tempesta che si prende. Figurati, è riuscito a scardinarmi anche la parabola satellitare, infatti sto facendo un lavoro che non ti dico, dovrò scavare, rifare tutto il plinto eccetera, guarda, un bagno di sangue. Però lei è sempre lì ed è alta, sarei più fortunato. Ora prova ora di fronte, quindi immaginati tu, e tu già lo sai dove abito, qui il mare io ce l'ho di fronte. Se tu sali sul tetto vedi l'Asinara, vedi tu. Sì, lo so, però conosco altra gente che ha le antenne e non le lega come era legata a quella, lega il palo e basta. L'antenna fluttua libera, e, insomma, sono antenne oltre i 5 metri, mai successo niente, è tutto lì. Sono cose che vanno studiate bene a quelle altezze. Chi c'era che voleva entrare? Vabbè. Già, la mia non era legata, cioè i tirati sono nel palo. C'è qualcuno che tenta di entrare? No, io non riesco a capire chi è. Sto scendo male. Deve essere Franco. E ci avevo le cuffie inserite. Com'è adesso? Va bene? Di lusso. E ci avevo le cuffie, mi stavano facendo rientro di RF. Ok, dai. No, sto pilotando con un'altra radio adesso. È buona questa la radio, va bene? Sì, benissimo. Cava cava, ok, vai, riprendi la tari. Sì, comunque l'abbiamo sistemata bene, già, lasciala stare, non la duca più. Esatto, uno e uno c'ho qui di stazionare. Si è sentito un basso di radio, però. Ancora? Ma adesso? Di nuovo. E adesso? Uno, due, tre. Insomma, vabbè. Il microfono ogni tanto c'è le... Aspetta, sta dando problemi questo microfono, ho capito perché. Ma cosa vuoi ti dica? Che microfono? Adesso uso questo, così ho finito di... Bene, va adesso. Okay. Il potenziometro difettoso, me lo tocchi a volte, non me lo fa uscire di radio, capito? Dovevo cambiare, ho cambiato già una volta di nuovo, non servono a niente questi trimmer. Smettili un po' di sparare, vedrai che si riprende, lo fai girare un paio di volte, ne metti lo spray all'interno, se c'è poco, la roba del genere te la tu. Sì, vabbè, adesso sto utilizzando il suo, è normale. Ma è meglio con questo che con l'altro. Ah, vero? Qua sei forte. Questo è il suo originale, infatti vi lascio questo adesso. E beh, il taglietto come va? Il taglio. Ho capito. Quel taglio? Già, è cicatrizzato già. Adesso non mi ricatto e vabbè, è già chiuso. Solo quella roba là? Già. Già va bene, allora. Adesso attacco l'altro apparecchio, quello come va. Natalie! Uia! Clara mi dotto! Ma ti immagini che sto già con l'antenna in terra la fa vedere, allucinate! Ognuno può far vedere come si ripara le biazzi, che è pizzina! Se anche tu le biazzi con l'antenna è troncata in due, a far vedere! Guarda che nonostante tutto era tutta troncata in due, usciva lo stesso, chiaramente le stazionarie, e c'aveva uno e uno le stazionarie! Ma dimmi tu! Perché quello è un dipolo, è praticamente quell'antenna lì. Cosa vuoi ti dica? Ah vabbè, se l'avete riparata sto scendo più che bene. Beh, è un dipolo verticale, non è che sia niente di più, Già lo so. E io me l'ho presa uguale, quell'antenna. Cosa ne dia? Piglia una verga e non mette di quelli in vetroresina gli stili. Ma guarda, se è piazzata bene quell'antenna non si dovrebbe troncare, perché c'è gente, c'è un amico mio di Tempio che ce l'ha e ce l'ha un bidiano e gli ha dato mai problemi. E perché c'è un branco? non so quanti anni ce l'ha la catà e non se l'è mai rotta. Natali, se vi consiglio, prima di tutto le misure degli elementi devi controllare tra un elemento e l'altro, e poi tra un elemento e l'altro mettici un pezzo di tubo di modo che lo rinforzi. Ehi, andate, cosa mi sta dicendo? Non quella roba che sto scendendo, con un'altra adesso. Io? Ehi. Vabbè, adesso sto scendo con le cobra. La fondo scala, sì, qua. Aspetta, te ne scenda, che... Una adesso. Adesso sì che è già nel caldo, che ha fatto anche la risata. Ma l'idea è la mia, eh. E infatti, va bene così. Ma l'importante è che sia risolto, almeno esce bene ed è più tranquillo, dai. Ok, va bene, andar bene meda. E tu stazionaria ne hai adesso? Adesso te lo dico subito. Uno e uno. Adesso, perché vai asciutta l'antenna. Quando si viene ad Eva era Marazzucchi. Vabbè, normale, dai. Comunque già va bene, stai arrivando bene, anche di radio e di lusso. Capito? Vabbè, io sto usando il coso adesso, il 68. Il 68 è quello preamplificato, ma già va bene lo stesso. Io mi devo buscare un minore barra macchina, che a chi va a chi su è un barrasoni il superstar, dove me lo metto? Ma quegli apparecchi piccoli che vendono non servono a niente, non puoi fare nessuna modifica sulla radio, capito? Addirittura ho provato ad adattare un altro microfono, stesso problema, no, non ce n'è, è andato così e buh. Lo stanno facendo apposta per non poterli modificare, capito? No, ma me ne cerco uno di quelli vecchi. Se ne vuole uno di quelli vecchi, modello vecchio e buh, non venuta da qua. Allora, tanto in macchina cosa noi gli devo fare questa grande attività? Aspetta un attimo, aspetta che vado a fare una commissione. E vai, vai. Avanti, Gianfra. Sì, infatti altra gente che l'ha piazzata bene, che l'ha controllata bene, eccetera, no, non ha mai avuto problemi. Qua si sarebbe dovuto spezzare tante volte, si è piegata un bel, però ha fatto danno ai tubi, molti tubi. Io ho tutti i dalmine oramai che erano sulle antenne fatti fuori, Natalia, lo sai, che sono tutti piegati, sono troppo pesanti, e il vento riesce in qualche modo a piegarli, e lo stesso mi ha piegato anche un coso d'acciaio, marciacaglia, quelli che costano un pacco perché sono d'acciaio proprio inox, indistruttibili, in compenso li ha piegati. Quindi ho detto, ma per avere tanti tubi costosi che non servono più a nulla, prendo e ci metto quello telescopico. Ho messo quello telescopico, ho visto che oscilla anche quello, sono tutti senza tiranti, oscilla, viene tenuto fermo sia dal ponteggio sia dall'eventuale staffa quando è sul muro, e per adesso sta andando bene, quindi ci lasciamo quello lì. Sono noi quelli buoni, non sono quelli da un millimetro che col dito li pieghi, sono quelli un po' seri, zingati, e vanno bene, ecco. E sono molto più leggeri quei tubi pesantissimi che ci provano a allargano a tirare su. Capito, Natali? Quindi niente tubi d'acqua, niente tubi d'almine, più tutta... Ci ho tutti buttati da una parte, tanto visto che qua non servono a niente. E un attimo che sono al telefono, Gianfra. Beh, tutti fuggiti siete, andate via, ve ne siete. No, ci sono io, Natalia, però sono impegnato, sto controllando mano a male. Ah, vabbè, dai, io sono qui. Ci sentiamo più tardi al limite. No, cappa, tanto magari entrerà anche qualche d'un altro. Gli altri, non so che fine hanno fatto, perché sono a casa notato, ma non ho chiamato. C'era Gianni, poi Franco, però no. Non so dove siamo andati. Sì, vabbè, non fa nulla. Avrò hanno avuto da fare anche loro. Ok, vabbè, siamo qua, con questo ascolto. Comunque oggi era da piazzare l'antenna Natale. Vabbè, ma bisogna che ci sia gente qua, da solo non ce la faccio. Ah, ho capito. Vabbè, tanto ci ha detto tutte non le antenne e anche tutti i pezzi per montarla, perché già lo sai, allunque ti sei dimenticato di comprare qualcosa. No, c'ho tutto. Appena si presenta l'occasione, la piazza. Sembra che ci siamo un paio di giorni di tregua, poi ricominciamo da capo. Bisogna approfittarne, Gianfranco. Vediamo un po'. Guarda, si sta uscendo questo microfono, Natali. Sì, adesso sì. Non si sta matto, ma ogni tanto mi fa problemi. Bisogna cambiarlo per forza, questo trimmer. Infatti. O se no ne avevo molto uno di divisi e l'avevo decorato un ragazzo a vita, ma con uno dopo il mio. No, gli metto il suo. Comunque adesso sta andando, sì. Io. Vabbè dai, lo lascio così allora, sennò poi magari lo blocco, d'ora. Se Gianfranco in quel Rix, Gianni non so che fine abbia fatto, boh. Gianni sicuramente sta facendo le prove. Ah boh, non lo so. Sì, vabbè. Ah, nuovo amico il crimine, come l'ha lasciato fermo, si è tornato casinato, boh. E che vuoi che te dica? Cambiaglielo, glielo metti nuovo, magari è difettoso. O magari non si viene a nuda qui così, quel potenziometro di Fusaro, capito? È da 4,7 è questo. Non servono. Prova ad andare da quel ladro della GBC, cosa vuoi ti dica? Se la divessi. Per carità, quello ti fa pagare l'entrata e l'uscita pure. Infatti. Mi voglio pigliare uno di questi apparecchi della Midland, quello grande però. Mi ha sparato un prezzo e me ne sono sceso le braccia e non l'ho potuto più pagare perché non riuscivo a entrare le mie mani in tasca. Guarda, ci sono quegli apparecchietti belli, chiaramente non di questi Bollmer perché non servono a niente quelle radio lì, capito? Cioè, c'hanno il segnale buono ma radio non ne hanno. Infatti, se uno se lo deve mettere in macchina, io devo cercare di buscarmi uno di quelli piccoli. Cappa, di quelli piccolini vanno bene. Te lo procuro io, lo piccolino. Ma di quelli modello vecchio ne voglio. Midland vuoi il modello vecchio, piccolino. Te lo do e te lo provi prima a casa se ti piace. Ciao Fabri, buonasera. Buonasera, continuo perché sto riparando un po' gli apparecchi, però te l'ho detto, ma aspetta prima, non comprare roba nuova, dovrei avere qualcosa e te lo provi a 2 lire, non ti preoccupare, tu usalo, tu mi dici. Ehi Fabri, come ti sembra questa radio? Buona, bella. Perché gli ho messo in macchina a metà per non essere troppo forte, perché io disturbo qua. Finché non cambio l'antenna non c'è nulla a fare. No, già va bene. Dai, proseguo. Comunque non comprare niente, già te lo passo a te, a Claudio. Te lo usi e qualche giorno te lo vedi. C'ero un pochino. Volevo avere, ne ho 2 o 3 di questi. Uno è a posto, gli altri 2 li dovrei controllare. Anzi, ne ho di quelli piccolini come dici tu, dovrei avere più di uno. Per mettermelo in macchina, dammi. Già te lo procuro, non ti preoccupare, con 20-30 euro te ne esci e sei a posto. Anda bene Meda. Dai, non ti preoccupare, già te lo organizzo io, se tutto va bene. Proseguo, comunque sono in ascolto. Fai quello che devi fare, dai, già siamo qua. Ciao Fabri, buonasera. Sì, in definitiva Natali, uno di quegli piccoli, non ne fai niente questo barasone in macchina, capito? Se ti devi spostare magari quando vai a pescare, giusto così, capito? Va benissimo. Mi serve per quello proprio, tanto non è che lo uso tanto in macchina. Io ho questo Superstar che è omologato, ma non lo voglio fare uscire da qua, a parte che è un barrasone, che è Manu. Poi non lo voglio toccare, nulla, deve rimanere immacolato, come l'ho comprato . Che mai fatti? Lascialo così, quello lì non lo toccare. Te lo tieni a casa quello lì. Ci cuccio. Mimi a pompugno, mi scabuzzando. Vabbè, Antonello Pompugno. Buonasera, drogatti. Avete parlato in due. Antonello e Coccomane. Allora, sono Coccomane, so. Avanti, fra. Una scena di questo Antonello. Ma sicuramente a me non mi ascolta, Natali. Con questa antenna in gomma, cosa pretendi che mi ascolti? Beh, 9 più 20 sei qua, c'è la sala Natalino, la pare che mi sto usando, quindi se dove c'è il puntino prima del 30, quello grande, poi c'è l'altro puntino, poi c'è il 30. Sta arrivando bene, Antonio, 9.25 quasi, sì. La radio bella, ottima e pimpante. Vabbè, sto pilotando 5 watt, non sto uscendo con molti watt, quindi mi ascolti lo stesso, quindi lo lascio così. Ok, vai Natale. Ehi, capo, sto facendo bene Antonello. L'unica volta che lo sento bene del radio, che prima c'è tutti i cuciminiadi. Sto usando il microfono normale, di quell'apparecchio lì. Il microfono pesticato non lo uso, se no si sente la ventola di quell'aggeggio. Adesso ho messo sistemando un po' la radio di qua a casa, quindi la sistema me la metto bene, come si deve, l'alimentatore è piazzato nel punto giusto, quello grande, poi quei due cinesi, uno ce l'ho già messo dentro la custodia, devo solamente fare il foro per l'accendisigari e il foro per le boccole, capito? E poi metto la ventola silenziosa, almeno mi faccio l'alimentatore di tutte le basi. Poi già gioca pure, il coso già ce l'ho, il DMR è voglia, basta avanza. Idea. Aspetta, voglio provare un'altra radio, Antone, se mi ascolti, una radio di quelle antiche. Prova. Ehi, Afra, dimmi, sì che ti ascolto, con questa apparecchio ti ascolto, sì. Se metto un FM500S sono combusto. Sì, segnale 7 qua, radio 5. Ciao Antone, Fra, ma state direttamente qua, vieni. Che così poi usciamo e devo passare un microfono a Natalino. Va bene, dai. Buon viaggio, ci vediamo a casa. Ciao Antone, Guerricchi c'è per me. Io sono liscio con il 140, 20 watt, 40 modulati. Va bene, sta radiolina, va bene. Ok, dai, ci sentiamo dopo, Fra, allora. Ehi, allora ci vediamo dopo, non ci vediamo, ci sentiamo. Vai Antone, Guerricchi c'è per me. Ehi, saluto di club, hai sentito? Vabbè, buon Guerricchi allora. Da voi, non c'è problema. Chiara Gaba. E allora, che mi dici Antone? È il microfono normale, esce benissimo. È l'unica volta che ti ho sentito bene di radio con quell'apparecchio. Stai uscendo di lusso. Infatti non l'ho cambiato, l'ho lasciato così come era, quindi lo lascio così, non tocco niente. Quindi poi vabbè, adesso quando sistemo la questione dell'alimentatore, aggancio tutto così com'è, adesso c'ho tutto incasinato perché sto pensando a altre cose, Simona non sta bene e quindi non mi sto dedicando manco la radio, figurati. Faccio da sistemare anche lineare, è quello grosso. Non ho avuto nessun tempo di niente, da una cosa all'altra, fai la spesa, poi a piedi, poi devo salire dopo a piedi, eccetera, eccetera, poi accompagnare a lei, quindi passa l'ora, non c'è tempo di tubo, se no mi sarei curato un po' delle radio qua. Prima penso a casa e poi alle radio c'è il tempo, a voglia. E infatti. Un alimentatore io mi devo procurare oppure me lo devo fare, perché mi serve un po' grosso. Vabbè, l'unica cosa da fare, come ti ho detto io, ti piglio di quei cinesi, la ventola, la stacchi, la roba, dal supporto che c'ha, la metti totalmente da un'altra parte, insonorizzata, in modo che non faccia casino, hai capito? E poi basta. gli fai degli attacchi, te ne fai due, quattro, quelli che sono, e ci, se vuoi ci metti un volto, metto, se no lo lasci così come, intanto il cremerino ce l'hai all'interno, quindi non è che c'è, se hai 50 pepe, pilotati quello che ti pare ti piace. Lineare già c'era l'altro giorno in vendita, mi sembra che valevano 80 euro, 100 euro, mi sembra che erano un 5,50, adesso non mi ricordo, ho avuto 100. Ehi, ce l'ho avuto io 5,50. Cioè si buscano, cazzo, già costato, ha comprato l'uovo, già ti costa poco, già 500 e passa euro costano di quelli lì. Quindi figurati, conviene a seconda mano, mi lo busti da qualcuno che non sia più entrando, che ce l'ha ributtato, lineare e te lo installi a casa, con uno di quegli alimentatori. No, no, non è per il lineare, no, è per separare questo qui dagli altri, capito? Gli altri li metto su un altro alimentatore, oppure questo qui lo attacco a quello che mi faccio e gli altri li lascio attaccati dove sono. Ho un trattamento di quelli in cinese che ti arrecanci quanti ne vuoi di apparecchi. Usavo il coso, il 140 io, quello cinese, figurati, lo pilotava come niente. Molto meglio di quell'alimentatore della falettonica che mi era stato costruito, figurati. Ogni tanto, o se ne andava in affanculo d'estate il ponte di Udi come fa di solito, o se lo partiva un condensatore. E qui devo fare sempre cambia, a un certo punto. Per 30 euro ho detto, se ne appia a Napoli, ne piglio di quei due di quelli cinesi. Uno ce l'ho da 20 e l'altro ce l'ho da 30. Poi avevo preso anche quello da 50 ampere, solo che non l'ho mai usato e quindi l'avevo dato. Avevo pagato 30 euro, mi ricordo che l'avevo pagato, 30-35, adesso non mi ricordo. E io mi volevo comprare una scatola per contenerci quelli cinesi, no? Smontarlo da dov'è e metterlo in una scatola più grande e mettere la ventola da un'altra parte in modo che non faccia rumore, di quelle gliela compravo nuova, no? Più grande. E così dovevi fare, io la scatola l'ho buscata perché avevo uno di questi di saldatori modello antico, ce l'hai presente, che c'era il compressore all'interno, cioè saldavi poi lo stagno te lo aspirava il compressore, e quello andava bene anche per aspirarti il cerume delle orecchie, figurati la quanto era potente, cioè lo infilavi nell'orecchio e ti toglieva il cerume. Natali, attento, Natalino. Natali, mi sta chiamando Franco. Dove sei, Olmedo, Franco? Capo Olmedo. Visto, me ne sono accorto la segnale. Ha intuito dove è andato. E Olmedo, Natali, riprendi. Ma non lo sento a Franco. C'ho QRM qua, già lo sai che c'ho l'antenna bassa. Adesso quando piazzerò quella nuova cambieranno la situazione, la metto più in alto, capito? Vedrai, ti metterà anche più silenziosa con l'antenna. Dimmi se gli è arrivata la Game Master. Sì, che gli è arrivata, l'ho vista io l'altro giorno, Fra. Aspetta che poi è andato la culo, chi è che ha chiamato? Ho capito, Ale. Ho detto che la Game Master gli è arrivata, l'ho vista io, Natalino. Perfetto, mi bisogna piantare e basta. E infatti bisogna solamente installare da sopra e basta, di avere pazienza di salire da sopra. Avanti Natali, lui c'era Franco California, poi c'era Pace Claudio, boom. Chi c'era che mi sono preso tutto, che sono riuscito a portare il cane a fare la passeggiata, a fare il cocco. E Franco non si sa che fine ha fatto, che non risponde più. Claudio è in QRX. C'è anche Gianfranco in QRX, Fabrizio, ma sono impegnati e stanno facendo cosa, capito? Ciao Alice. Sì, ciao Gianni. Come sta andando la mia modulazione? Com'è il segnale? Che il vento mi ha fatto cappuccio l'antenna l'altro giorno. Già è buona voglia. Se ti metti a pompare, sei quanto Claudio, mi sa che lo passi pure. Pappagappa. grazie, va bene allora. Mi accontento. A me l'ha detto, non accontentarti. Cosa? Tu non accontentarti. Mi accontento, dai. Già va bene, già va bene. Ieri non ti sentivo, neanche a casa, ti dico. Segnale 5-6. Ciao Fra, e beh, come mi ascolti oggi? Alla grande, va male, hai risolto, ma ti è spezzata che cosa, l'antenna o il palo? L'antenna. Ti è caduto il palo? Adesso comincio a sentirlo a Franco. Ciao Franco! Natali, io ti sento bene, grazie a Dio, non ho QRM qua in macchina. Dove sei Fra? Adesso sono nella parte bassa della 4 corsie, diciamo prima di... dopo il mese, dai, salendo verso Sassari. Va, già va bene. No, vi ascolto tutti. Ma come arrivo da te? Bene, ascolta, che problema hai avuto l'antenna? Si è troncata in due. Ma di nuovo l'antenna o il palo? No, l'antenna sempre l'antenna. Troncata in due, stava pendolando, la tenuta dal filo e buco. Cos'è fatto? Di nuovo incerottata? Aggiustata l'abbiamo. Ah, va bene, dai. Torte. Il vento era forte, boh. Cavagava. Segnale buono? Ma non lo vedo, ma la radio è fortissima, quindi penso che sia un segnale ultimo. KK, va bene così. Natalino, avanti. Io sono basso, sono di vatte e di antenna. comunque ti sentivo anche Alghero prima, in certi punti ti sentivo. Cosa ha detto già che non l'ho sentito bene? Perché lo sento basso. E c'ho l'antenna bassa, è colpa mia. Ha detto che in certi punti ti sentivo anche ad Alghero. A me non mi sente, invece non ce l'ho fatta, Franco, vero? E allora? Non lo vedi quando mi ha risposto dentro Alghero? Ma quando? Poco fa? Ehi. Da fuori, è nella periferia. Arrivi bene qua. Santiago Nova, Radio 5. No, dentro Alghero non sento io perché c'è troppo QRM, mi caspita. E in certi punti proprio segnali di 7-8 di QRM, quindi è impossibile sentire nessuno. Conosci dentro la città in macchina, un casino. Gappa. Sì, è passato un ragazzino con quei monopattini elettrici. Beh, finché non si è allontanato non capivo nulla. Gliel'hai messo il condensatore lì alla... o la ferrita, l'attacco della radio? No, non c'è niente qui, vorrebbe che qualche torre di ferrite lì. Ce l'accendi sigari, magari sì, ma quando vuoi Fra, vieni qua e lo facciamo. Ci mettiamo al giardino e facciamo il passaggio del Gianeocca a Rio. L'alimentazione diretta dalla batteria. Addirittura mi disturba anche la iniezione, sento elettrica, diventa silenziosa. È normale perché stai alimentando dall'accendisigari, che chiaramente è così. Quando vuoi lo facciamo, Fra, tanto ci dobbiamo avere dopo. Ma state arrivando? No, sono ancora, non sto camminando, non sto andando piano, tranquillo. Sono nella salita di, diciamo, frontale a Monteolo, va. Ma devi passare a casa tua prima? No, negativo. E allora venite direttamente. Ma anche Anna c'è? Sì. Ehi, bella bionda. Io non sono bionda, buonasera a tutti. E adesso che non sei bionda. Va bene, dai, vi aspetto. E Luda sta aspettando a te. Ci vediamo dopo, Fra, che così via passiamo un attimino, usciamo un po' prima, noi due andiamo a portare quel microfono a Natalino. Ok, vai, a dopo. Avanti, Pomponio. Aspetta, sto parlando con Anna. Certo, Fra. Ehi, cosa hai detto? Io nulla, tu mi metto di me, ho mollato subito. No, Franco, ho detto cosa ha detto. Ho detto, ci sentiamo dopo, se devi fare QRX, io sono in radio ancora, ho rilanciato a Pomponio. Ah, scusa, mi sono distratto perché stavo parlando con Anna. Va bene, dai, ci vediamo a casa allora. Saluto anche a Gianni e a Natalino. Natalì, adesso quando viene Franco poi intanto dobbiamo uscire a prendere le pizze e te lo passo col microfono, ok? Eia, adesso lo sento bene a Franco. Arriva a Radio 5 addirittura qua. Sto usando quel M95 amplificato. Ma io ho l'antenna bassa. Dopo un certo punto non la sento la gente, il QRM mi ammazza qua. Già la cambio l'antenna, cara, la metto pure più in alto, a vedere se sento lontano poi. Monte Oroci, fra. Aspetta che stavo parlando anche io, dimmi qua. Monte Oroci. No, adesso sono... Cos'è? Al globo. Mi sciuga, 9:10 c'è qua. Da una rete, io non te ricevo benissimo, cazzo. Vai Antonio, scusa se ti ho preso il microfono, fai girare per Gianni. Io rimango in quel